chum beli, mei concentro, ei guida cucundo e ma. Certe volte, stuvio lì, uno riesce a stare su, allo penso, a una figgia al sicuro. Poi mi spongio in pittini, fino a quando un mese basto violin. Poi mi sento rilasso, mi son proprio demuo, però sono sempre solo che peccato.